Onorevole Bindi, vi aspettavate qualcosa di più? Il Partito Democratico ha preso 6 punti in più dell'Ulivo, quindi eventualmente è chiaro che c'è un elettorato di sinistra che... Bertinotti ha fatto ancora una volta la campagna elettorale chiedendo i voti per stare all'opposizione. E il precario vuol contare, non è che vuol stare all'opposizione. Ma... ovviamente ci dispiace per il risultato della sinistra radicale, che non è attribuibile alla nostra scelta, ma bensì alla... ripetitività della loro proposta. Terza volta di Berlusconi, e sarà un governo che secondo lei durerà per tutta la legislatura? Beh, questo vedremo. Visto il problema della Lega? Beh, la Lega per la prima volta è davvero determinante. Io ho fatto campagna elettorale in Veneto, ho visto la loro propaganda, ho visto i loro messaggi. Non vorrei essere in coalizione con loro, ecco. Il voto dell'UDC è il voto cattolico. Il voto cattolico è andato all'UDC? Il voto cattolico è andato all'UDC, è andato alla Lega, vi assicuro molto. Purtroppo è andato incomprensibilmente, aggiungo, è andato al Popolo delle Libertà, è andato a noi in larga parte. Credo che non è questo che ha fatto la differenza, perché poi... vorrei che sul dato dell'UDC si riflettesse: prima, che ha preso meno voti dell'altra volta; secondo, che ha un dato assolutamente omogeneo in tutta Italia che non gli consente risultati significativi al Senato.